Buonasera, che emozione tornare in radio, era da un sacco che non sedevo a queste seggiole rumorosissime, tra l'altro. E sì, mi sto già impallando perché sono davvero tanto emozionata. Se non l'aveste capito, questa era la sigla di questo nuovo programma, New Radio, delle Bikini Kill, e ringrazio il mio grafico di fiducia, sia per aver fatto la grafica del programma, sia per avermi suggerito questa fantastica canzone che in effetti ci sta a pennello. E niente, dopo tanti mesi torno in radio, sono Giulia, detta anche Mercu, e ho spaccato il secondo. La canzone è iniziata proprio alle 18, non potevo essere più precisa di così, e niente, nasce questo nuovo piccolo programma che andrà in onda una volta al mese, perché cominciamo pian pianino, vediamo un po' cosa riusciamo a fare, e questo programma vorrebbe parlare di artiste donne, per lo più, che con la loro musica hanno condizionato il mondo, non solo della musica, ma la società intera. E la prima grande protagonista che io ho scelto è Nina Simone. Partiamo subito con una premessa. Metto le mani avantissimo per tutte e tutti, perché tutto questo nasce da una passione che mi è nata nei suoi confronti. Qualche tempo fa sono stata lontana dall'Italia per un po' e lavoravo come volontaria, avevo dei giorni più o meno liberi e in quei giorni mi mettevo a studiacchiare. Per farmi compagnia decidevo di mettere della musica e per non disturbare, perché giustamente studiare, leggere, memorizzare le cose con della musica, se avessi messo musica italiana non sarei riuscita a concentrarmi, questa cosa non riesco a farla, e quindi mettevo musica in inglese perché, ebbene sì, non lo parlo così bene, non, insomma, sono una di quelle classiche persone che sente le canzoni in inglese e inventa le parole. Dopo, non so, 20 anni che ascolto i Queen, alcune canzoni sono completamente in un inglese mio personale. E così ho iniziato ad ascoltare queste donne che hanno condizionato la musica con il loro jazz, il loro blues, e tra queste una di quelle che mi ha colpito di più è stata proprio Nina Simone. Per il timbro della sua voce, per il modo che aveva di cantare e suonare, perché lei è anche una pianista, e insomma mi ha tenuta molto compagnia, e nell'arco del tempo ho deciso di appassionarmi un po', andare a scovare un po', a scoprire quella che era stata la sua vita, e grazie a lei mi è venuta l'idea di questo programma radio, che però appunto non parlerà soltanto di artiste singole ma anche di gruppi musicali, e per questo, diciamo, questo è il motivo per cui sono partita con lei. E ho approfondito, ho letto, ho visto dei documentari, ho cercato di capire il significato delle canzoni, e oggi ve ne volevo parlare. Quindi, premessa è che non sono una storica della musica, non sono una profonda conoscitrice di Nina Simone, ma sono una grande appassionata, quindi se dirò delle cialtronerie, cosa molto probabile, siete invitate e invitati a farmelo sapere. Come potete farmelo sapere? Come vi ricorderete benissimo, la nostra radio ha dei social. Al momento, qui il più facile su cui reperirmi è Instagram e Radio Zammi Sud. Se volete scrivermi qualcosa per dirmi: guarda Giulia, carissima, brava, però hai detto una sciocchezza. Non dico parolacce perché so che sono in ascolto magari delle mie amiche mamme, e forse ci sono in giro delle tenere innocenti orecchie, e quindi oggi bandite le parolacce, anche perché per fare bella radio magari non le diciamo. E quindi potete commentare, farmi anche dell'in bocca al lupo, perché sono molto molto agitata ed emozionata, era davvero tanti mesi che non stavo davanti al microfono, e per supportarmi, poi magari chi mi conosce personalmente mi può anche scrivere un bel messaggio privato, però sappiate che lo leggerò in radio, quindi anche lì cercate di non essere volgari e soprattutto non scrivere cose troppo private, perché potrei leggerle inavvertitamente e mandarle in onda, e tutto il mondo, certo, connesso potrebbe sentirle, non è vero? Altra cosa, un'altra mani avanti che metto è per le amiche anglofone che sono in ascolto. Probabile che insegnanti di inglese, traduttrici dall'inglese, insomma esperte, conoscitrici della lingua, possano trovare le mie pronunce non sempre così corrette e perfette. Vi chiedo scusa, io l'inglese lo parlo un po' a modo mio, mi sto già mettendo in ginocchio sui ceci per voi. Abbiate pietà, non siate troppo cattive dopo nei commenti, anche qui potete scrivermeli in diretta, però li leggerò. E niente, direi che potremmo iniziare con uno dei grandi classici di Nina Simone. Introduco subito così la sua carriera, poi focalizzerò un po' l'attenzione su quelle che sono le canzoni politiche di Nina Simone. Questa non lo è, e infatti per molto tempo lei aveva anche smesso di suonarla, però volevo raccontarvi questa piccola chicca legata a questa canzone. My Baby Just Care For Me, questa volta forse sono andata abbastanza bene. Praticamente in uno dei suoi ultimi tour europei, Nina Simone, prima della sua pausa, ecco, a causa di un tracollo nervoso e di grande stanchezza, era passata anche da Londra e era stato programmato questo concerto nel quartiere giamaicano di Londra. Lei era molto contenta perché pensava, oh, parlo con la mia gente, loro sì che mi capiranno. Aveva in programma, in scaletta, di fare I put a spell on you, mamma mia, terribile, mi rendo conto, altre canzoni per lei con un significato politico molto intenso, ma mentre inizia a suonare la folla davanti a lei, il pubblico astante, la interrompe e le chiede appunto My Baby Just Care For Me, perché in Giamaica era diventata una grande hit, ripresa dai Sound System e riadattata, e loro volevano sentire quella. La particolarità, la grande particolarità di Nina Simone è che quando si esibiva in concerto, lei richiedeva al pubblico una totale concentrazione. Lei creava questa armonia, era come se dal suo punto di vista doveva crearsi un unico corpo per ascoltare e vivere davvero le sue canzoni. E quindi per lei questo pubblico così irriverente che addirittura la interrompe, non l'ascolta, era veramente una cosa incomprensibile. Anche se dall'altra parte ha pensato, finalmente un pubblico che sa anche tenermi testa. Perché appunto era solita, se qualcuno parlava o si alzava, interrompere la canzone e mettere le persone al suo posto. In questo caso invece alla fine si alza, si allontana un attimo, si riprende, torna, inizia My Baby Just Care For Me e guarda il pubblico e dice, oh, adesso siete contenti? E loro impazziscono, esultano e poi riprende il concerto. Insomma, questo è per darvi un'anticipazione di quella che era la personalità di Nina Simone, e questa appunto è My Baby Just Care, se riesco a metterla però, ragazzi. Ok, My Baby Just Cares For Me. Thank you. Even Lana Turner smiled. Something he can't see. My baby don't care. Who knows? My baby is chaos for me. Questa era My Baby Just Cares For Me, fenomenale, bellissima, anche se lei poi a un certo punto decide di un po' abbandonarla, perché si dedica appunto moltissimo alla musica politica e questa non la rappresentava. Ma da dove iniziare per parlare di Nina Simone? Ah, nel frattempo noto che chi è all'ascolto nota, sente i riferimenti, brava, brava, brava Fra. E so che ti sto disturbando durante una formazione, tra l'altro, molto bene che comunque mi riesci ad ascoltare. Questa è una grande dimostrazione di amicizia. E per iniziare a parlare di Nina Simone, diciamo che si potrebbe partire dall'inizio. Da dove è nata? Tryon, nella Carolina del Nord, nell'America del Sud. E nel 21 febbraio del 1933. La sua famiglia discende appunto da persone che avevano subito lo schiavismo e sua madre era una predicatrice ed è per questo che lei inizia a suonare il pianoforte molto molto presto, già a 3 anni inizia ad usarlo. In casa non avevano proprio un pianoforte, però avevano tantissimi strumenti, erano soliti passare molto tempo insieme con la musica e lei va in chiesa con sua madre dove inizia appunto a suonare, poi sente questi canti che la coinvolgono molto e inizia questa sua passione per la musica. Ed è lì che viene notata da una signora bianca, Miss Mezzi, che decide di iniziarla la musica classica e quindi la prende sotto la sua ala protettrice e una volta a settimana le dà lezioni di pianoforte a casa sua, private, in modo tale da poter aiutarla a sviluppare questo suo grande talento, perché per essere così piccola era davvero brava, aveva un orecchio assoluto, sapeva riprodurre immediatamente i suoni delle canzoni che sentiva. E quindi lei una volta a settimana lascia la sua comunità per oltrepassare le ferrovie e andare alla casa della signora Mezzi, e una signora benestante, e questa casa anche molto bella, i suoi occhi lussuosa. E in questo periodo si mette già in luce il fatto che lei, già così piccola, di fatto non fa né parte della sua comunità nera, ma neanche di quella bianca. Lei, ad esempio, per andare dalla signora Mezzi doveva fermarsi, si fermava spesso a una drogheria a prendere un panino, ma non poteva consumarlo all'interno perché c'erano ancora le leggi razziali che non permettevano alle persone nere di mangiare dentro ai locali, e quindi doveva consumarlo all'esterno. Lei in questo modo però rimane in una sorta di limbo in cui non fa parte di nessuna delle due comunità. Però segue queste lezioni che mettono in grande luce le sue grandi qualità di pianista, il suo orecchio assoluto, e la signora Mezzi la inizia ai grandi compositori della musica classica, Mozart, ma soprattutto Bach. Chi l'ha condizionata di più nella sua formazione da pianista è Bach. E infatti più avanti nei suoi concerti, nelle sue composizioni, spesso i critici musicali sentono questi suoi richiami al piano, ai grandi compositori e soprattutto in particolar modo a Bach. E un evento particolare di quel periodo fu la sua prima esibizione in assoluto. Lei a 12 anni le viene chiesto di esibirsi col pianoforte in chiesa, e lei, tutta felice, orgogliosa, va appunto a questo evento, si prepara al pianoforte, i suoi genitori molto orgogliosi, suo padre era un tuttofare, si barcamenava per la propria famiglia facendo mille lavori, e si siede al pianoforte, ma si rende conto che a un certo punto una coppia bianca si avvicina ai suoi genitori chiedendo di fare spazio, di lasciare il posto, perché quel posto era riservato ai bianchi. Allora lei si impunta, si alza e afferma che non avrebbe mai suonato se i suoi genitori non avessero potuto sedersi lì davanti. Insomma, già da molto piccola il carattere di Nina Simone viene subito fuori, la sua grande forza. Altro tema particolare è Nina Simone non è il suo vero nome, ovviamente. E, ecco, qui sicuramente sbaglierò, quindi Eunice Waymon era il suo vero nome di nascita. Lei però ad un certo punto, nel momento in cui inizia a suonare nei locali ad Atlantic City, decide di cambiarlo, e lo cambia in Nina perché a quanto pare c'era stata questa frequentazione con questo ispanoamericano che la chiamava Nina, e quindi Nina, e Simone invece in onore dell'attrice francese Simone Signoret. E questo era soprattutto per evitare che la madre, che come abbiamo detto era predicatrice in chiesa, venisse a sapere che lei suonava nei locali di Atlantic City, una cosa assolutamente impensabile e contro la sua religione. Torniamo ancora alla sua formazione, perché c'è un avvenimento molto importante. Appunto, c'è questa signora che le insegna la musica classica ed è bravissima, così brava che addirittura viene istituito un fondo per i suoi studi, perché altrimenti non avrebbe potuto continuarli una volta cresciuta. E un'estate viene mandata alla Juilliard per 2 mesi a preparare l'esame di ingresso come pianista al Curtis Institute di Philadelphia. Questo momento è molto importante per Nina Simone, perché lei adora la musica, per lei è un modo di esprimersi, e sua madre, pur essendo una donna anche molto distaccata, nella biografia di Nina Simone spesso ricorre questo tema della madre presente, ma sempre un passo indietro, non molto affettuosa, che non parlava molto con Nina Simone. Il confidente di Nina Simone è suo padre. Però riponeva tantissime speranze in sua figlia. Fin da piccola spera, desidera che Nina Simone, sua figlia, diventi la prima pianista nera a entrare nella storia della musica. E quindi Nina ha molto intenzione di rendere orgogliosa sua madre. E perché questo avvenimento importante, quello legato all'esame di ingresso al Curtis Institute? Perché Nina Simone quel giorno esegue l'esame dal suo punto di vista in maniera impeccabile, ma poco tempo dopo, una volta tornata a casa, riceve la lettera, e anche questo nella biografia viene descritto in maniera molto dettagliata, riceve la lettera in cui è stata rifiutata. E quel giorno la distanza fra lei e sua madre viene ancora di più aumentata. Per sua madre fu una grande delusione, come se appunto il suo desiderio nei confronti della figlia fosse andato completamente in fumo, e Nina sente questo distacco. E all'inizio non si dà pace, non capisce per quale motivo è stata rifiutata. Uno dei suoi fratelli, erano in sei in tutto, uno dei suoi fratelli che inizia a instillarle il dubbio riguardo al colore della sua pelle. Ma all'inizio lei non è così convinta. È qualcosa, una consapevolezza che arriverà più tardi negli anni, ed è per questo che lei avrà come uno degli obiettivi principali per la sua carriera musicale riuscire a suonare alla Carnegie Hall a New York come prima pianista classica nera. E quello sarà un traguardo estremamente importante per lei e di grande rivalsa. E appunto, tornando un po' alla sua vita e a come è arrivata a diventare Nina Simone, la Nina Simone conosciuta da tutti, appunto, dopo il rifiuto del Curtis Institute, lei inizia a lavoricchiare, va prima in un collegio, poi quando è abbastanza grande inizia a lavoricchiare presso una maestra di pianoforte, e dove doveva cantare. Però si rende conto appunto che poteva fare di più, e quindi non solo lascia il lavoro, ruba anche alcuni allievi a questa insegnante e comincia a dare lezioni di pianoforte. Finché ad un certo punto approda in un locale abbastanza malfamato, nel senso, in quel periodo era non che ci girasse gente malfamata, però diciamo che i locali non erano ben visti, soprattutto dalla madre di Nina Simone. Il Midtown Bar and Grill di Atlantic City. Lei viene scritturata per suonare pianoforte durante la notte, ma soprattutto cantare. Lei all'inizio si rifiuta, non vuole cantare, lei vuole suonare il pianoforte, ma il proprietario glielo impone, dice o canti o altrimenti io non ti faccio lavorare. E per fortuna inizia a cantare, ed è lì che nasce l'astro di Nina Simone. Ecco, diventa così famosa, il bar comincia a essere così tanto frequentato, perché le persone andavano apposta per sentire lei, che ad un certo punto cambia completamente la clientela, e lei comincia ad avere un buon giro, comincia a essere conosciuta, viene notata, ed è da qui in poi che inizierà la sua carriera di musicista, di pianista e cantante. All'inizio, tra l'altro, lei viene considerata una cantante jazz, come l'erede di Billie Holiday, e questa cosa ovviamente la farà un po' arrabbiare, come tantissime cose nella sua vita, perché superficialmente lei pensa, non lei superficialmente, ma i critici l'hanno associata a Billie Holiday in quanto entrambe nere, ma lei non era una cantante jazz, lei non si identifica con quel genere musicale, per questo si arrabbia e non riconosce questo titolo. E appunto, come abbiamo detto, è qua che prende, decide di cambiare nome, Nina Simone, anche per non essere, non far sapere alla sua famiglia cosa stava realmente facendo. Però buona parte dei suoi introiti li manda alla famiglia per aiutarli, e da qui inizia la sua vera e propria carriera. Lancerà il suo primo album con la Bethlehem Records, che però, a quanto pare, cosa di cui ero assolutamente all'oscuro, in quegli anni le case discografiche non erano proprio del tutto corrette, e infatti lei firma questo primo contratto un po' inconsapevolmente, ingenuamente, per produrre questo album, ma poi di fatto non avrà i veri e propri diritti. E però riceve un grandissimo, piace molto al pubblico, viene trasmessa molto in radio, e insomma le dà molto, molto risalto. E questo primo album si chiama Little Girl Blue, e una delle canzoni più famose di questo album è appunto I Love You Purgy, che riproponiamo perché è una canzone bellissima e che l'ha resa appunto molto famosa. Ed eccola qua. Scusate che fare tutto da sola, non mi ricordavo, è un po' complicato alle volte. Nina Simone, I Love You Purgy. Thank you. My man now, I've got my Porgy. He understands now, I've got my Porgy. Everything's all right now, he understands now. I've got my man now, I've got my Porgy. Yes, I love you, Porgy. Don't let him take me. Don't let him handle me and drive me mad. If you can keep me, I'm gonna stay here with you forever. And I'll be glad. Yes, I love you, Porgy. Don't let him take me. Don't let him handle me with his hot hands. If you can keep me, I'm gonna stay here forever. I've got my man. Someday, I know someday that he's coming to call me. He's going to handle me and hold me so. It's going to be like dying. When he calls me, but when he comes, I know I'll have to go. Take me. Allora, vi vorrei proporre un'altra canzone sempre di questo album che è uscito nel 1958, dicendovi nello specifico, così magari mettete attenzione a questo, sulla sua voce. Nina Simone aveva una voce da contralto. E non riusciva a coprire moltissime ottave, ne copriva soltanto due, però era una voce calda e rabbiosa, una voce anche che si poteva diventare molto setosa e profonda, ed è questa la sua grande particolarità. E per questo vi voglio far sentire anche un altro brano di questo album, Love Me or Leave Me, uscito sempre nel 1958 con Bethlehem Records. Say, love me and leave me and let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time the right time for kissing. Night time is my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. I want your love and I don't want to borrow. Have it today to give. There's no love for nobody alcune digressioni. Allora, prima cosa, ho cercato di proporvi dei brani live, perché rendono molto di più. Lei live è qualcosa di sensazionale, sentire quelle registrazioni, appunto, come dicevo prima, creava uno strano contatto con il suo pubblico. E ad un certo punto viene definita appunto la sacerdotessa del soul, proprio perché è come se durante i suoi concerti ci fosse una sorta di rituale, qualche spirito si impossessasse di lei e attraverso di lei contagiasse anche tutto quanto il pubblico. E quindi ascoltare i live è profondamente diverso rispetto a delle registrazioni. Poi ovviamente live non la si può sentire in questo momento, ci sono le registrazioni, ma vi consiglio, cosa che ho fatto completamente a caso, perché prima non lo facevo, ho comprato gli LP, i vinili, perché ascoltare un vinile di Nina Simone è tutta un'altra cosa. E quindi, se ne avete la possibilità, provate, è una sensazione completamente diversa. E non so se voi come me, sulla sedia, ovunque voi siate, ballate, perché secondo me è irresistibile. Allora, prima di passare a tutta la parte politica di Nina Simone, che è davvero grande e complicata anche, altra premessa, mani avanti, di Giulia, per non fare figuracce, è veramente un ginepraio districarsi tra la sua carriera musicale e politica, perché in quegli anni sono successe davvero tantissime cose. Siamo sulla fine degli anni 60, e negli anni 50, inizio degli anni 60 e tutti gli anni 60, diciamo che è il momento in cui lei produce più album e, per esempio, cambia casa discografica più volte, quattro volte, e produce tantissimi album con ognuna di esse. Sono anni in cui ci sono tantissimi avvenimenti legati al movimento per i diritti civili, del movimento Black in America, e le cose si intersecano e rischio di fare delle grandi confusioni. Io cerco di andare in base alla storia e anche alle canzoni. Spero di non sbagliare troppo, in caso voi potete riprendermi quando volete. E l'ultimo, cioè un particolare importante della sua vita, ma perché ha condizionato tantissimo la sua carriera musicale e politica, è che nel 1960 conosce quello che sarà il suo futuro marito, Andrew Strode, spero si pronunci così, oh mamma mia, Andy. Un poliziotto, e si innamorano abbastanza velocemente e si fidanzano. Particolare molto forte è che è una relazione estremamente tossica, una relazione molto violenta. La sera del loro fidanzamento, Andy si ingelosisce a causa di un fan che stava facendo i complimenti a Nina per il suo concerto, e la picchia, la violenta, ed era la sera del loro fidanzamento. E giorni dopo, quando lei però era andata a rifugiarsi presso un'amica, lui fa come per non, cioè dice di non ricordarsi nulla. Quando la vede tutta tumefatta, non capisce cosa le sia successo, lei glielo dice: ma sei stato tu, come non ti ricordi? E lui afferma di non ricordarselo, che non l'avrebbe più fatto. Ovviamente non andrà così, ma la cosa particolare della loro relazione è che ad un certo punto Andy, comprendendo un po' come si muove il mondo della discografia, decide di farle da agente, e molto in fretta diventa più il suo agente che non suo marito, e la spinge tantissimo a incidere canzoni, a firmare contratti con le case discografiche, le organizza tantissime tournée estenuanti. E la cosa particolare è che, oltre ad essere una relazione molto violenta, loro due litigavano spesso, e anche in presenza di altre persone lui la picchiava. Lui la spinge appunto al limite della fatica, nonostante i suoi continui avvertimenti. Nina diceva: io sono stanca, ho bisogno di una pausa. Fa un concerto due settimane dopo aver messo alla luce la loro prima e unica figlia Lisa, la manda in tournée poco dopo. Lei glielo rimprovera per molto tempo, per molti anni, ma lui la spinge perché spera sempre di arrivare in vetta, di non lasciare mai questo momento, perché appunto deve sfruttare l'onda del suo successo. E nella biografia raccontano di questo episodio in cui lui, per convincerla a continuare a suonare, a fare concerti, tournée, a scrivere le canzoni, a comporle, le scrive sulla lavagna della loro casa in cucina che un giorno Nina diventerà una big mommy che non farà più niente, sarà solo ricca e dovrà stare con la sua famiglia. E così la continua a convincere, ma vedremo che col passare del tempo, verso la fine degli anni 70, lei inizia a manifestare dei problemi fisici abbastanza seri legati alla depressione, al bipolarismo, a delle crisi improvvise durante le tournée, si arrabbia per delle inezie, fa delle scenate molto, molto forti, finché ad un certo punto appunto decide di mollare tutto nel 1970 e parte per la Liberia, e da lì ci sarà una sorta di discesa. Però è importante questo all'interno della vita di Nina Simone, della sua carriera musicale, perché appunto è Andy che da agente la spinge tantissimo e la fa suonare tantissimo ovunque, le organizza tour in tutta America e tour anche in Europa. Ma la cosa particolare è che Andy non apprezzò mai il suo coinvolgimento nel movimento black di quegli anni, e per questo le richiedeva sempre un grande sforzo e una grande fatica nel suo lavoro, per tenerla lontana anche dal suo impegno politico, cosa che non gli riuscì, perché appunto lei ad un certo punto prende coscienza di sé, delle sue origini. Nel 1961 fa un concerto a Lagos con altri artisti afroamericani come lei, e per lei lì c'è una sorta di rivelazione. Sente tutta la sua africanità, la sua discendenza, e da lì in poi vuole rimettere nella sua musica, vuole che la sua musica diventi un messaggio politico, sia per rivendicare tutta la discendenza degli schiavi deportati in America, e quindi per combattere per i diritti civili. Per questo che lei si affiancherà molto a conoscerà Martin Luther King e altri esponenti del movimento black di quegli anni, e deciderà che la sua musica deve far riscuotere le coscienze, deve far riflettere le persone, deve farli prendere coscienza della loro situazione, da dove arrivano e dove devono andare, verso la libertà, il riconoscimento dei propri diritti. Ad un certo punto della sua vita e della sua carriera, addirittura Nina Simone si discosta molto da Martin Luther King, che comunque portava un messaggio sempre di non violenza. Molto famosa è la sua marcia da Selma a Montgomery, ma Nina Simone a un certo punto capisce che la non violenza non può essere risolutiva, e le sue idee si avvicinano molto di più alla figura di Malcolm X, anche se non lo conobbe mai. Vivevano anche abbastanza vicini, ma non si conobbero. Lei ad un certo punto passa proprio a questa visione più violenta, lo dice in interviste, in sue dichiarazioni, ma anche nei suoi stessi testi, che non bastava più farsi andare bene la situazione come era, bisognava imbracciare le armi e combattere. E una canzone che segna questo grande passaggio è appunto Mississippi Goddamn, che fu un grande scandalo, perché appunto maledetto Mississippi, e alcune radio si rifiutarono di passarla come canzone. Siamo nel 1963 e questa è Nina Simone. Mississippi Goddamn is our last tune. We had some request for it. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi Goddamn. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. Everybody knows about Mississippi Goddamn. Can't you see it? I know you can feel it. It's all in the air. I can't stand the pressure much longer. Somebody say a prayer. Alabama's got me so upset, and Governor Wallace has made me lose my rest. Everybody knows about Mississippi, gone down. Hound dogs on my trail, school children sitting in jail. Black cat crossed my path, I think every day's gonna be my last. Lord have mercy on the land of mine, we all gonna get it in due time. I don't belong here, I don't belong there, I've even stopped believing in prayer. Don't tell me, I'll tell you, me and my people just about do. I've been there, so I know they keep on saying, go slow. That's just the trouble. Do so. Washing the windows. Do so. Picking the cotton. Do so. We're just plain rotten. Do so. We're too damn lazy. Do so. I'm thinking's crazy. Do so. Communist plot. All I want is equality for my sister, my brother, my people, and me. You lied to me all these years. You told me to wash and clean my ears and talk real fine just like a lady, and you'd stop calling me Sister Sadie. But my country is full of lies. We all gonna die and die like flies. I don't trust nobody anymore. They keep on saying go slow. That's just the trouble. Do so. Desegregation. Do so. Mass participation. Do so. Unification. Do so. Do things gradually. Do so. We'll bring more tragedy. Do so. Questa era Mississippi, Goddam, e gli stati del sud dell'America la censurarono e diventò Mississippi XXX, appunto perché era una canzone estremamente esplicita. Questa canzone segna il passaggio netto e decisivo di Nina all'interno del movimento e della lotta. Lei lo fa attraverso la sua musica ed è per questo che negli anni lei verrà identificata come la voce del movimento. A volte anche non in maniera così consapevole e voluta. E questa canzone, lei dice che la scrisse, era uscita prima ancora che lei riuscisse a pensarla, uscì di getto da lei, in seguito a un attacco che ci fu a Birmingham, dove morirono 4 ragazzine nere che stavano andando ad un corso religioso. E questa cosa la sconvolse così tanto che scrisse questa canzone. Addirittura nella biografia raccontano che suo marito Andy la trovò in garage che metteva insieme dei pezzi di metallo perché voleva costruirsi una pistola. E insomma lei è molto sconvolta. In quel periodo c'erano tanti attacchi alla popolazione nera e lei prende posizione. Prende posizione e decide appunto di rendere la sua musica uno strumento che sia specchio della società, faccia vedere quali sono i problemi che la società americana è malata e vuole tenere i neri in una situazione di segregazione, di oppressione, e vuole far sì che vuole scuotere le coscienze a ribellarsi a questa situazione. E due figure importanti per questa sua presa di coscienza sono due donne, un'altra cantante, Miriam Makeba, che lei conosce nel 1952 e per la quale scriverà anche una canzone, e l'altra è Lorraine Hansberry, una commediografa, anche lei estremamente politicizzata, che spinge sempre Nina a prendere coscienza della sua forza politica. E anche per Lorraine Hansberry Nina comporrà una canzone presa da una delle sue sceneggiature, che le dedicherà, perché Lorraine morirà molto presto, molto giovane, di cancro, e che canterà in occasione, in un'università, in occasione di alcune sommosse, alcuni avvenimenti politici, dove appunto c'era una grande partecipazione. A quel tempo ancora erano in quegli anni che il primo studente nero all'interno di un'università americana. E quando lei più avanti andrà, mi sembra nel 1965, adesso spero di non dire una castroneria, andrà a fare questo concerto in università, ci sarà una grande maggioranza di studenti bianchi e pochi neri. Lei canta questa canzone che ha scritto in onore della sua amica Lorraine, presa proprio da una delle sue sceneggiature. Si chiama Young, Gifted and Black, una delle sue canzoni più famose. Andando avanti sempre nella sua vita senza fare troppe digressioni, mischiando, anche se in realtà potremmo fare anche così, ma perché no, mischiamo, andiamo in base a quello che mi sento. Io mi ero fatta, se sentite le pagine girare è perché io, come al solito, mi preparo gli appunti, mi scrivo le cose e poi vado a ruota libera, mi perdo nei miei meandri. Vi faccio sentire subito la canzone che ha scritto per Miriam Makeba, che lei la definiva una regina africana, e niente, che appunto aveva molto scosso le sue origini africane, e compone per lei questa canzone che si chiama West Wind. Oh yeah, I'm glad to see you, glad to see you. They tell me it's a full house. This is a good time to introduce you to the heartbeat of our organization. The pulse of everything that we do is centered around the drums. And of course, if you think about that really seriously, you know that your entire life is centered around your heart. Beat, and that's rhythm, is it not? Mm. This song was, I was told to sing by Miriam Makeba. And she is my dear friend, and it is a prayer. Those of you who are fans of hers will remember this song. West wind, blow ye gentle. Thank you. Got each gallon warrior's claim. Got each gallon warrior's claim. 'Cause I am the soil from which they came. I am the soil from which they came. So west wind, with your veramente se mi inserisco così su questo testo però è lunghissimo e intanto ve ne racconto alcune cose. Come vi dicevo, è stato scritto in onore di Miriam Makeba. Quando si sono conosciute, si sono ritrovate molto l'una nell'altra. Miriam Makeba arrivava dal Sudafrica e vivono appunto questa condizione di oppressione molto simile, e ne parlano, l'affrontano. E Nina in un'intervista dice di questa canzone che è una canzone che mi ha chiesto di cantare Miriam Makeba, è una mia amica e questa è una preghiera. West Wind invoca il vento dell'Ovest, gli spiriti di ieri e i loro poteri per liberare gli esseri viventi. È organizzata su una trama di percussioni minimale che esclude l'intervento di qualsiasi altro colore. West Wind invita Nina a recitare le sue preghiere. Vento dell'Ovest, nel tuo splendore, libera il mio popolo. Quindi è legato sia alla sua africanità che al fatto di liberare il proprio popolo dall'oppressione. L'altra canzone dedicata alla sua amica di cui vi parlavo è appunto Young and Gifted and Black. È una canzone uscita poi nell'album Black Gold. Aspettate che lo recupero perché non voglio dire castronerie anche qua. E volevo leggervi il significato e poi farvela ascoltare. E, come dicevo, è dedicata alla sua amica Lorraine, scomparsa prematuramente di cancro. E la sente come un canto religioso e niente, vi leggo il suo significato. Essere giovane, dotato e nero, o che sogno affascinante e prezioso. Essere giovane, dotato e nero, aprite il cuore alle mie parole. Nel mondo intero, sapete, ci sono migliaia di ragazzi e ragazze che sono giovani, dotati e neri. È così. Giovani, dotati e neri, dobbiamo iniziare a dire alla nostra gioventù: un mondo vi attende, una ricerca è appena cominciata. Quando davvero non siete dell'umore, ebbene, c'è una verità che dovreste conoscere. Se siete giovani, dotati e neri, la vostra anima è intatta. Giovane, dotato e nero, come vorrei conoscere la verità. Ci sono giorni in cui, quando mi giro, la mia giovinezza mi insegue. Oh, la mia gioia di quel giorno è che possiamo essere tutti fieri di dire che essere giovani, dotati e neri è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno. quite recently, there was an article in the New York Times on Lorraine Hansberry and a play downtown off Broadway called To Be Young, Gifted and Black, produced by her. And there was a picture of her there. And it was a picture that I have seen many times before. But photography, as you know, has its own way of communicating, just its own mediums do. And all I can tell you is that this picture caught hold of me. And in her eyes, this will sound very strange, but not to people who are really hip, she kept trying to tell me something. I was sitting on the bed. And I remember distinctly saying, I would keep looking at the picture and keep looking at the picture. And of course, the memory of being with her many times kept coming, flooding back in my memory. But I said, and I remember, inspiration is a very strange thing. Sometimes it just happens like a light. And I remember getting a feeling in my body. And I said, that's it. To be young, gifted, and black, that's all. And sat down at the piano at that moment and made up a tune. And it just flowed out of me. I knew what I wanted it to say in essence, but I couldn't get the words together. So I called up my musical director and told him what was on my mind, explained to him a little bit about Lorraine Hansberry because he didn't know her. And he captured the mood, and the song was born less than 2 days later. And that's been less than a month ago. So I really think that she gave it to me. That's what I mean when I say that. To be young, gifted and black. Oh, what a lovely, precious dream. To be young, gifted and black. Open your heart to what I mean. You shouldn't leave now. In the whole world, you know, there's a million boys and girls who are young, gifted and black. And that's a fact. You are young, gifted and black. We must begin to tell our young. There's a world, little girl, waiting for you. Yours is the quest that's just begun. So when you're feeling alienated and real low, there's a great truth that you should know. To be young, gifted and black, your soul's intact. Don't you forget it. Your soul's intact. Oh, good now. Yes, yes, yes, yes, yes. Langston Hughes is gone, but he meant the same thing. Now you know about Billy, poor Billy. They killed her for the very same thing that you gave a party on. You know, they killed her because she smoked pot. Really, they killed her. Now, of course, Lorraine is gone. Enough, enough, enough, Nina. I feel so good. By the way, this is a black orchid given to me last night. Where were we? Jersey City, by the Black Students Council, and I preserved it until tonight so you could see it. Hi. Okay, this is the last one. To be young, gifted and black. Oh, how I long to know the truth. There are times when I look back and I am haunted by my youth. But my joy of today is that we can torno un po' a gamba tesa anche su questa canzone estremamente lunga, è un live appunto, per continuare questo percorso politico, di risveglio politico di Nina Simone, per parlarvi di un'altra canzone molto importante nella sua carriera, For Women, giusto? L'ho detto giusto al plurale? Come vi dicevo prima, a un certo punto lei si schiera con la parte del movimento black che diceva che la non violenza non portava da nessuna parte e che quindi bisognava imbracciare le armi e farsi ottenere questa giustizia con ogni mezzo possibile, e abbraccia anche quelle posizioni come Stokely, che appunto pensano che non ci debba essere all'interno del movimento black supporto da parte dei bianchi. E in questo contesto, in questo scenario si inserisce la canzone For Women, che tra l'altro è anche una biografia di Nina Simone, parla di queste quattro donne ed è un testo molto feroce e di grande tristezza, anche la stessa interpretazione, e che si avvicina molto per i tenori molto forti sia del testo che dell'interpretazione a un altro testo di Nina Simone, Strange Fruit, di cui parleremo però dopo. E in questo testo parla di queste quattro donne che sono tra l'altro il suo percorso, sono la sua storia, e di come appunto la donna dovrebbe sganciarsi da determinati valori di bellezza per essere libera, dovrebbe sganciarsi da quella che è ritenuta lo stereotipo della bellezza, la donna nera dovrebbe sganciarsi dagli stereotipi della bellezza occidentale per darsi davvero valore. E la prima donna a cui si riferisce probabilmente è anche sua madre, Mary Kate, e che l'aveva un po' appunto, è rimasta in quella condizione, non è riuscita a sganciarsi. E la seconda donna è una donna meticcia, molto bella, e abbandonata ad un limbo tra due mondi. Parla della Nina da piccola, appunto, che non era parte di nessuna comunità veramente, era in entrambe ma non apparteneva davvero a nessuna e non era quindi mai al posto giusto. Poi parla della Nina probabilmente all'interno del suo matrimonio, che per compiacere suo marito fa tutto quello che vuole lui, e una donna quasi che può essere comprata con la promessa del denaro. che vive quindi all'ombra di un uomo seguendo il suo volere. E la quarta è la stessa Nina che sta scrivendo la canzone, che invece appunto sente risvegliare questo suo istinto di riscatto ed è quasi pronta ad uccidere. E quindi vi faccio ascoltare quest'altra bellissima canzone, For Women. Mannaggia, mi sa che non si sente questa fantastica canzone. Cosa ho combinato? Ah no, eccoci. My back is strong, strong enough to take the pain inflicted again and again. What do they call me? My name is Aunt Sarah. My name is Aunt Sarah. Aunt Sarah. My skin is yellow. My hair is long. My father was rich and white. He forced my mother late one night. What do they call me? My name is Sophronia. Thank you. scusate, mi ero un po' persa nella canzone stessa. E questa era For Woman, Women. In realtà, volendo, potrei anche leggervi la traduzione, ma penso che sarebbe un po' riduttiva, anche perché letta da me magari non è, anche se molto breve. Ma sì, dai, ve la leggo, perché sì, sono in vena e mi piace molto. La mia schiena è forte, abbastanza forte da sopportare il dolore. Mi è stato inflitto molte volte. Come mi chiamano? Mi chiamano zia Sara. La mia pelle è caffè latte, i miei capelli sono lunghi. Il mio posto è tra due mondi. Mio padre era ricco e bianco. Ha violentato mia madre una sera. Come mi chiamano? Mi chiamano Safronia. La mia pelle è abbronzata, i miei capelli sono belli. I miei fianchi sono un invito. Le mie labbra sono dolci come il vino. Di chi sono la bambina? Chi ha i soldi per comprarmi? Come mi chiamano? Mi chiamo Sweet Things. La mia pelle è scura, il mio atteggiamento è duro, sono pronta a uccidere il primo stronzo che vedo, perché la mia vita è stata difficile. Sono davvero amareggiata in questi giorni, perché i miei genitori erano schiavi. Come mi chiamano? Mi chiamo Peaches. Insomma, questa canzone è una canzone molto forte, che segna appunto una grande ferocia a livello politico per Nina Simone. Fu registrata il 30 settembre del 1965 e negli anni successivi diversi movimenti femministi tentarono di riprenderla per renderla il loro inno, ma Nina Simone fu categorica e affermò che quella era un inno per qualsiasi donna. E per lei era una sorta di confessione, un bilancio autobiografico della sua stessa vita, di quello che aveva fatto fino a quel momento. E da qui andiamo ad un'altra canzone estremamente politica. Siamo in un momento, appunto, abbiamo detto, in cui lei vuole parlare attraverso la sua musica. E scrive queste canzoni anche estremamente violente, ed è per questo che fa molta fatica anche a ottenere degli ingaggi, perché viene ritenuta troppo esplicita. E dall'altra parte c'è appunto Andy, suo marito, il suo agente, che invece fa di tutto per allontanarla il più possibile dal movimento e da queste sue posizioni. Ed è in questo periodo, esattamente nel 1967, che compone Blacklash Blues, dove parla appunto della condizione degli afroamericani, ed è composta con Langston Hughes. Spero di averlo pronunciato anche questo bene. Mr. Backlash, Mr. Backlash, just who do you think I am? Taxes, freeze my wages, and send my son to Vietnam. You give me second-class houses and second-class schools. Do you think that all colored folks are just second-class fools, Mr. Backlash? I'm gonna leave you with a backlash blue. Mr. Backlash, Mr. the backlash. Just what do you think I got to lose? I'm gonna leave you with the backlash blues. You're the one who'll have the blues, not me. Just wait and see. Spero che stiate ballando come me, perché sono canzoni favolose, sono bellissime, oltre ad avere anche un contenuto non indifferente. La prossima non poteva essere più esplicita di così, il titolo è Revolution, e l'ha scritta insieme al musicista jazz Weldon Irvine Jr., e parla appunto della rivoluzione, ma non solo del colore della pelle, è una rivoluzione universale. E parla delle barriere che devono essere distrutte e delle persone che devono uscire dalla loro quotidianità perché ne sono soffocate dai soldi, e insomma un testo che vuole segnare sconfinate, siate liberi. E niente, volevo farvela ascoltare perché anche questa è una canzone estremamente potente. Oh, shoot. Maybe we'll do them both, I don't know. Hey, we're in the middle of a revolution, because I see the face of things to come. Yes, I do. Oh, your constitution. Well, my friend, gonna have to bend. I'm here to tell you about the destruction of all the evil. It will have to end. Ah, it's gonna be all right. Everything's gonna be all right. It's gonna be all right. Because I'm talking. piccola, era Revolution, all'interno dell'album To Love Somebody, uscito nel 1969, è una canzone molto particolare per quanto riguarda il genere musicale, perché è una miscela tra R&B, rock, spiritual, c'è pure il coro femminile, ha questa fine un po' psichedelica e niente, quindi oltre ad avere un contenuto politico importante, ha anche delle sonorità abbastanza diverse dal solito. Ringrazio chi mi sta ascoltando, perché fa molto piacere, siete in tante, immagino molte donne, e quando mi fate i complimenti sono molto molto felice, divento rossa anche se non lo potete vedere, per fortuna. E niente, torno indietro, perché vi ho appena fatto sentire una canzone del 1967, ma torniamo un attimo indietro ad un altro album che è uscito invece nel 1965, e si chiama Pastel Blues, già il nome è molto particolare, ma anche questo è un album, almeno le canzoni che ho selezionato per voi sono molto particolari, perché hanno un contenuto di rivendicazione estremamente forte. Prima, parlandovi di Four Women, vi dicevo che per la crudezza e la tristezza e la forza del messaggio è associabile, è avvicinabile ad un'altra canzone di Nina Simone, che è Strange Fruit. Appunto, Strange Fruit è all'interno dell'album Pastel Blues ed è una canzone che prima di lei aveva cantato soltanto Billie Holiday, e parla del linciaggio, che era un fenomeno che soprattutto tra il finire del 1800 e i primi del 1900 era molto usato in America, e soprattutto nei confronti della popolazione nera. E niente, Nina Simone riprende questa canzone già cantata da Billie Holiday e ne fa la sua nuova interpretazione. È appunto una ballata antilinciaggio che lei inserisce in un periodo storico, il 1965, estremamente violento per quanto riguarda il movimento per i diritti civili in America. L'altra canzone è Sinnerman, in realtà è un rifacimento di un gospel, perché come vi dicevo Nina Simone da piccola andava molto in chiesa, non frequentava soltanto la chiesa di sua madre, ma nelle sue camminate all'interno della comunità nera capitava anche in altre chiese, e ha sentito spesso questi gospel, ed è una sorta di preghiera. E lei la riferisce appunto al movimento, che deve appunto rivolgersi a qualcosa di più alto e espiare i propri peccati. Prima vi mando Sinnerman e poi Strange Fruit. Oh, Sinnerman, where you gonna run to? Sinnerman, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord, all on that day. But the rock cried out, I can't hide you, the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out. I ain't gonna hide you, God, all on that day. I said, rock, what's the matter with you, rock? Please hide me, Lord. Don't you see me praying? Bene, non mi vanno più le tracce musicali, per quale motivo? Vabbè, volevo farvi ascoltare Strange Fruit, ma non so per quale... Ecco, vedi, quando non fai per tanto tempo una cosa, poi ti arrugginisci e non ti ricordi più come si fanno. Delle istruzioni molto semplici. Vabbè, ecco Strange Fruit. 7 feet barren, strange fruit, blood on the leaves, and blood at the roots. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant South, them big bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, clean and fresh. Then the sudden smell of for the crows to pluck. For the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the leaves to drop. Come avete sentito anche dalle sonorità, è una canzone estremamente triste e il testo, ci tengo a leggervelo perché appunto è anche molto crudo. Strange fruit. Gli alberi del sud portano un frutto strano. Sangue sulle foglie, sangue alle radici. Un corpo nero che oscilla nella brezza del sud. Frutto strano appeso tra i pioppi. Scena pastorale del valoroso sud. Occhi fuori dalle orbite, bocca digrignata. Profumo di magnolia dolce e fresco e un improvviso odore di carne bruciata. Quel frutto sarà preda dei corvi, raccolto dalla pioggia, soffiato via dal vento, marcito dal sole, abbandonato ad un albero. Ecco uno strano e amaro raccolto. È una canzone molto forte e prima di lei, come avevo detto, solo nel 1939 l'aveva interpretata Billie Holiday. Faccio un altro salto molto importante. Nel 1967 viene pubblicato l'album Silk and Soul, all'interno del quale c'è la canzone I Wish I Knew How It Would Feel to Be Free. È una canzone che diventò un inno del movimento per i diritti civili. E come vi dicevo, siamo nel 1967 e molti riponevano anche grandi speranze con questa canzone, ma in realtà di lì a poco, esattamente il 4 aprile 1968, Martin Luther King fu ucciso al balcone della camera 308 del Lorraine Motel di Memphis alle 18:18. Nina fu estremamente scossa dalla sua morte, erano morti in tanti prima di lui e quindi decise di dedicargli questa canzone. I Wish I Knew, però non l'ho preparata. In my heart, remove all the keep us apart. I wish you could know what it means to be me. Then you'd see and agree that every man should be free. I wish I could give all I'm longing to give. I wish I could live like I'm longing to live. I wish I could do all the things that I can do, though I'm way overdue. I'd be starting anew. Well, I wish I could be like a bird in the sky. How sweet it would be if out my heart I could fly. I'd soar to the sun and look down at the sea. Then I'd sing, cause I know, yeah. And I'd sing, cause I know, yeah. Then I'd sing, cause I know. I'd know how it feels. I'd know how it feels to be free. Yeah, yeah. I'd know how it feels. Yes, I know. I'd know how it feels. How it feels to be free. Bellissima, sembra anche piena di speranza davvero questa canzone, ascoltandone il ritmo, la melodia. E faccio un passone indietro perché mi sono fatta prendere dalla posizione politica di Nina Simone e ho completamente dimenticato di raccontarvi questo aneddoto. Vi dicevo che lei era stata rifiutata dal Curtis Institute. E sua madre riponeva grandi speranze in lei, sarebbe diventata la prima pianista classica nera. E lei a un certo punto della sua vita riesce a esaudire questo desiderio per se stessa e per sua madre, anche se sua madre non glielo dirà mai di persona, e non ha comunque questa grande distanza che ormai si era creata fra le due, non verrà mai colmata veramente. Lei il 12 aprile del 1963 corona il suo sogno e fa un concerto alla Carnegie Hall. E fu un grande successo, fu uno dei momenti che la consacrarono a grande artista, grande pianista, grande cantante. E il fatto divertente per un certo senso è che nessun produttore volle mettere i soldi per quel concerto perché non era una sicurezza. Allora suo marito e agente decise di pagare tasca propria e pagò lui l'affitto del teatro, e fece molto bene perché appunto da quel momento Nina ebbe grandissimo successo, iniziò le sue tour, tutti la volevano. E vorrei leggervi questo pezzetto all'interno della biografia dove John Wilson del New York Times scrisse: Nina Simone sembrava totalmente assorta nell'atmosfera del momento, ha un modo di essere così rilassato e disteso che man mano che costruisce i brani può, quando desidera, attraversare diversi gradi di intensità drammatica. Nina Simone ha un senso molto sviluppato del dramma o del contrasto, come quando interpreta una canzone popolare su un ritmo primitivo, ripetitivo e sensuale. È un animale da palcoscenico, talentuoso e dotato di un grande senso dello spettacolo. Ecco perché anche quando le sue idee non prendono forma, e accade, è interessante seguire i suoi meandri della sua audace immaginazione. Quindi alla fine lei ce l'aveva fatta, era riuscita a suonare come pianista alla Carnegie Hall, che era appunto il Sancta Sanctorum per i musicisti a quell'epoca. Non vi concludo, non vi dico come va avanti la sua vita, perché io volevo appunto focalizzare l'attenzione su questo aspetto più politico di Nina Simone e di quanto può essere potente la musica e quanto si può fare con la musica. E quindi vi lascio la curiosità, andatevelo a scoprire. Vi posso consigliare ciò che ho fatto io, molto semplice. Ho visto un documentario su una nota piattaforma che girano in questo, una di quelle che gira in questo momento, What's Happened, Miss Simone. È veramente bello anche perché riprende delle sue interviste, quindi è abbastanza fedele. E ho letto la biografia scritta da David Brown, David forse perché è francese, David Brown, Brown Lambert, Nina Simone, Una vita. È scritto molto bene, devo dire, è molto meticoloso, ci sono tantissimi anche, mentre descrive la vita di Nina, fa delle digressioni sul periodo storico e fatti specifici del momento, quindi aiuta a districare un po' tutti gli eventi e i contesti, e quindi può essere una buona lettura. C'è anche un altro film che però non sono riuscita a trovare perché sono un dinosauro tecnologico e quindi faccio un po' fatica alle volte, però potrei dirvi il nome, magari qualcuno lo trova e me lo fa sapere. Si chiama Nina Simone, The Legend, di Frank Lord, del 1992, credo. Sulla data di uscita non ne sono così convinta, però Nina Simone, The Legend. E niente, credo di aver concluso dopo un bel po' che sono seduta qua. Era da tanto che non facevo, è stato bellissimo ed emozionante. Ringrazio tutte le persone che mi hanno tenuto compagnia, perché vi vedo. Abbiamo un sistema sul computer per vedere quante persone si connettono durante le dirette, e vi sento e vi leggo perché alcuni di voi mi hanno scritto, grazie. E vi ricordo che i nostri programmi radio escono su Instagram, Radio Zammi Sud, su Facebook, Radio ZM. Tra poco riprenderemo anche il canale Telegram, lo prometto. Ma la cosa ancora più interessante è che non ci sono solo le dirette, ci sono anche i podcast. E dove li trovate i podcast? Su www.zam-milano.it, il sito del collettivo ZAM che si trova a Milano Sud. E c'è la sezione proprio dedicata alla radio, dove potete trovare tutti i podcast da quando abbiamo iniziato a fare radio fino ad oggi. E quindi potete riascoltare qualsiasi puntata, nello specifico questa. Donne, musica e lotta tornerà all'incirca tra un mesetto. Guardate i nostri social con una nuova protagonista o delle protagoniste, chissà. Vi lascio intanto con un'ultima canzone di Nina Simone. Non la pronuncio perché tanto la direi sbagliata. Ve la lascio scoprire da soli e da sole. Grazie ancora e mi raccomando, rimanete connessi con la nostra radio. Thank you. got life. I've got laughs. I've got headaches and toothaches and bad times too, like you. I got my hair, my head, my brains, my ears, my eyes, my nose and my mouth. I got my smile and it's my smile. I got my tongue, my chin, my neck. My toes got my lips.